in primo piano. Buongiorno, buon sabato da Giulia Crivelli, benvenuti alla nostra rassegna stampa internazionale. Anche questa settimana molto difficile trovare temi che non siano strettamente legati alla pandemia da coronavirus e quindi pandemia di Covid. Scusate questa fissazione, ma io non riesco a capire perché non si faccia sempre questa distinzione, che non è poi così difficile. Il coronavirus è l'agente patogeno, la malattia si chiama Covid-19. Ma vabbè, io cerco di ricordarmelo sempre. In ogni caso, la pandemia, per l'appunto, è interessante secondo me, anche perché qui anche nel nostro paese si riapre ciclicamente, direi, e a maggior ragione in questo periodo, la discussione sull'utilità o meno, sull'efficacia o meno del reddito di cittadinanza introdotto ormai più di un anno fa, e che adesso tra l'altro, sapete, è di nuovo oggetto di discussione, perché ci si chiede se potrebbe essere comunque accumulabile nel caso chi lo percepisce decidesse per esempio di andare a lavorare come bracciante. Ma questa è una questione tutta italiana. Invece su internazionale hanno tradotto un articolo della Neue Zürcher Zeitung, quotidiano di Zurigo, quindi della Svizzera tedesca, intitolato L'inattesa utilità del reddito di base. Non è il nostro reddito di cittadinanza, ma è quello che è stato introdotto nel 2017 in Finlandia e che in un certo senso è anche stato il modello del reddito di cittadinanza italiano. Quando forse ricorderete che fu introdotto, non sortì i risultati sperati, cioè che comunque le persone cominciassero a cercare attivamente lavoro, e però, scrive la Neue Zürcher Zeitung, alla luce di quello che sta succedendo, le conseguenze economiche della pandemia lo fanno tornare di attualità. È un articolo molto interessante per appunto cercare di affrontare questa questione in modo non dogmatico, senza essere pro o contro a prescindere di queste misure, e quindi lo consiglio a tutti. È sul numero di Internazionale in edicola da ieri, che tra l'altro ha uno speciale richiamato in copertina che si intitola 24 ore in Italia, che analizza proprio appunto ai tempi della pandemia quello che succede in tanti luoghi diversi. Naturalmente il lungo articolo è corredato da fotografie un po' in posti diversi del nostro paese. Torniamo però alla questione europea, perché anche di questo si parla tantissimo. Siamo nel mezzo di questo percorso di accettazione o meno di quei 36-37 miliardi del MES. Dobbiamo ancora capire esattamente come sarà strutturato il Recovery Fund, che è letteralmente il fondo per il recupero, per la rinascita, anche se vogliamo, e che però non sarà disponibile immediatamente. Quindi nel frattempo ci potrebbero essere appunto questi miliardi del MES. Sapete che è appena stato varato un decreto che deve ancora essere esaminato dal Parlamento, dovrà poi essere convertito in legge. Ricordo tutte queste cose perché l'impianto costituzionale italiano prevede tanti passaggi che appunto devono far riflettere sull'utilità di annunci che poi alla prova dei fatti presentano una situazione diversa da quella che viene fatta nel momento dell'annuncio delle misure del decreto. Ma detto questo, sapete che quel decreto vale 55 miliardi, quindi 36 potrebbe essere appunto un aiuto considerevole. E da qui vi segnalo un'intervista di Giampaolo Accardo a J.D. Giuliani, che è un giornalista francese, Jean-Dominique Giuliani, che è il presidente della Fondazione Schumann, fondazione che prende il nome da Richard Schumann, che fu uno dei padri dell'Unione Europea. E ora appunto, siccome cadono i 70 anni da quella che viene definita dichiarazione Schumann, che era un discorso appunto che fece Robert Schumann per presentare i pilastri dell'Unione Europea, la prima domanda dell'intervista è quali sono oggi le conquiste e i fallimenti, potendo fare un bilancio di 70 anni, e che cosa resta da fare rispetto alle intenzioni originarie. E Jean-Dominique Giuliani risponde: i risultati ottenuti finora dagli europei superano le speranze più rosee dei padri fondatori. Lo scopo era quello di ristabilire in modo durevole la pace. Nessuno oggi si immagina che uno Stato membro dell'Unione Europea possa pensare di ricorrere alla violenza per risolvere un conflitto con i suoi vicini. Trovo interessante questo punto perché soprattutto le nuove generazioni, ma io stessa che sono nata nel 1969, non sappiamo veramente che cos'è la guerra e questo lo dobbiamo anche all'Unione Europea, quindi sicuramente andrà riformata, speriamo che finita la pandemia o proprio approfittando dei nodi emersi durante questa pandemia queste riforme si facciano, ma l'Unione Europea è stata fondamentale nel garantire la pace in questi 70 anni nel nostro continente. A proposito di Unione Europea, è molto interessante l'articolo apparso sulla Frankfurter Allgemeine Zeitung perché sapete che uno dei tanti temi è quello di come l'Unione Europea, attraverso il MES o attraverso altri strumenti, aiuterà la ripresa dell'economia. E il commissario alla concorrenza, Margrethe Vestager, che era commissario alla concorrenza anche nella commissione precedente, quindi ha molta esperienza, in un'intervista alla Frankfurter Allgemeine Zeitung mette in guardia sul fatto che alcuni tipi di aiuti di Stato. Lasciamo perdere quelli alle compagnie aeree, perché su quelli sapete si è già scatenato il fondatore di Ryanair che dice non è giusto dare aiuti alle compagnie aeree, con le quali che lui naturalmente vede come sue concorrenti, perché in questo modo si distorce il mercato. Ma settore aereo a parte che ha le sue difficoltà e in generale tutta l'industria aerospaziale. In questo caso, per esempio, il tema è quello del turismo, perché è vero che molti paesi, soprattutto quelli che hanno come grande parte del loro PIL il settore del turismo, e tra questi naturalmente c'è l'Italia, stanno pensando ad aiutare il settore. Margrethe Vestager mette in guardia, dice proprio perché siamo un mercato unico, dobbiamo stare attenti che le decisioni dei singoli paesi non distorcano la concorrenza. Questo è il suo ruolo. E credo sia un punto interessante proprio mentre, per esempio, la Germania, sapete, proprio oggi riapre alcuni dei suoi confini, quelli con l'Austria, quelli con la Svizzera e quelli con la Francia, e si appresta, così hanno anticipato molti politici, a dare il benestare ai cittadini per andare in vacanza quest'estate. Molti tedeschi andranno in vacanza fuori dalla Germania. E quindi questa questione di porre tutti i paesi che aspettano l'estate per accogliere i turisti, e ripeto, tra questi naturalmente c'è l'Italia, nelle stesse condizioni. Molto interessante anche il ritratto che la Süddeutsche Zeitung ha dedicato a Teresa Bellanova, il ministro dell'Agricoltura, che sapete, è stata al centro delle cronache politiche italiane perché ha fortemente voluto e alla fine ottenuto quel provvedimento di regolarizzazione degli immigrati irregolari, soprattutto quelli impiegati in agricoltura e poi anche di colf e badanti. Quando è stato annunciato questo provvedimento, si è commossa, essendo lei avendo iniziato lei a lavorare proprio come bracciante e sapendo molto bene che cos'è lo sfruttamento. Per quelle lacrime è stata, non so neanche trovare l'avverbio o l'aggettivo giusto, comunque per quelle lacrime è stata derisa anche, presa in giro, e lei ha detto una cosa secondo me giustissima che la Süddeutsche Zeitung riporta, dice io ho avuto la forza di piangere perché commuoversi non si capisce perché deve essere visto come un atto di debolezza, è sicuramente una cosa che capita più alle donne che agli uomini, quello di commuoversi e magari di farlo in pubblico, ma non si capisce perché deve essere associato direttamente a una forma di debolezza. Naturalmente lo fanno soprattutto gli uomini. In ogni caso, al di là di questo, la Süddeutsche Zeitung appunto racconta questo personaggio, sapete, appartiene a Italia Viva e anzi portavoce di Italia Viva nel governo e spiega anche quali sono i suoi prossimi obiettivi e naturalmente cerca di spiegare, e non è facile, forse non è facile neanche quando cerchiamo di spiegarcelo tra noi italiani, come funziona questa coalizione di governo così eterogenea. Sempre sulla Süddeutsche Zeitung invece ci sono state anche delle analisi che guardano tutte all'interno perché il capogruppo del partito dell'estrema destra AfD, Alternative für Deutschland, del Brandenburgo, del Land del Brandenburgo, sarebbe a un passo dall'espulsione dal partito perché ci sono prove ormai inconfutabili della sua vicinanza a un'organizzazione neonazista. Sapete che purtroppo in Germania ce ne sono ancora tante e ci sono state un po', è uno di quegli argomenti che erano molto discussi prima della pandemia, adesso fa parte di quegli argomenti nascosti dalla pandemia, ma queste organizzazioni sono più che mai attive. Vi segnalo anche, a proposito di nascondere le notizie, una notizia che invece è circolata sull'agenzia di stampa russa Interfax e che se la prende molto con Financial Times e New York Times. Questi due quotidiani sono colpevoli, secondo la portavoce del Ministero degli Esteri russo Maria Zakharova, di aver messo in dubbio la veridicità dei dati sulla pandemia diffusi da Mosca e, secondo appunto Zakharova, se non chiederanno scusa e non smetteranno di mettere in dubbio i dati ufficiali di Mosca, i giornalisti di Financial Times e New York Times non saranno più accreditati ufficialmente appunto in Russia. Vedremo come finirà a proposito di libertà di stampa, ed è un'altra cosa di cui forse un po' ci dimentichiamo, di quanto è bello avere la libertà di stampa e di quanto invece ancora in tanti paesi questa libertà di stampa di fatto non ci sia. Vi segnalo un sondaggio della CNN sulle presidenziali americane. Sapete che si vota in novembre, il primo martedì di novembre, per eleggere il presidente americano, che poi si insedia nel gennaio successivo. Il candidato repubblicano naturalmente è Donald Trump, Joe Biden è il candidato dei democratici. Si sono persino fatte avanti delle ipotesi che potrebbero portare allo slittamento delle elezioni o in alternativa a un voto per posta, ma è un'ipotesi che non piace a Donald Trump. Intanto, naturalmente, si continua a fare sondaggi. Secondo questo sondaggio della CNN, Joe Biden è in vantaggio di 5 punti su Donald Trump, ma il presidente attuale Donald Trump ha un vantaggio nei cosiddetti swinging states, cioè gli stati in bilico, che sono quasi sempre decisivi, ricorderete nell'elezione di Obama e poi in quella di Trump, con fino all'ultimo questi stati che hanno deciso se Trump avrebbe poi battuto Hillary Clinton. Sapete che negli Stati Uniti si conquistano i vari stati e i grandi elettori, può succedere, ed è successo con Donald Trump, ma era successo anche con tanti altri presidenti, può capitare che non abbia la maggioranza dei voti, dei singoli voti popolari, però invece abbia, grazie a questo meccanismo, poi la maggior parte degli stati e dei grandi e dei collegi che si portano dietro, ma vedremo. Secondo invece il Times, che si occupa di un altro argomento un po' nascosto dalla pandemia, che è la Brexit, sarebbero 3,5 milioni i cittadini di paesi dell'Unione Europea residenti nel Regno Unito, e per tutti loro naturalmente vanno trovate, perché anche qui appunto tutto un processo che è stato un po' interrotto dalla pandemia, vanno trovate le soluzioni giuste in uno scenario post-Brexit, cioè quando veramente la Brexit diventerà realtà nel 2021. Era l'ultima segnalazione per oggi, ancora un buon sabato da Giulia Crivelli.